Focus Economia. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia a borse aperte. Domani infatti la borsa di Milano è chiusa ed è l'ultima prima della pausa natalizia, mi riferisco alle borse aperte per quello che riguarda il mercato. Adesso vi arriveremo, diciamola subito, l'ultima seduta prima della pausa natalizia è una seduta positiva per Milano soprattutto, più 1,20 per cento, Parigi più 1,20, Francoforte più 0,30, Londra più 0,30, l'America più 0,50%, ma è una seduta particolarmente positiva per gli Stati Uniti. Il Dow Jones infatti ha toccato per la prima volta i 18.000 punti. Pensate che insomma dai minimi storici, quelli del marzo 2009, quando insomma si era scaricata tutta la crisi esplosa tra l'estate del 2008 poi con il crack di Lehman Brothers, dicevo, dai minimi storici del marzo 2009 la borsa americana, l'indice Dow Jones è risalito del 180%, quindi banalmente chi avesse anche investito solo sull'indice nell'arco di 5 anni, un po' di meno, 4 anni e mezzo, avrebbe guadagnato il 180%. Che cosa ha spinto l'America? Ne parleremo. Beh, il dato sul PIL. Il PIL americano è cresciuto più di ogni attesa, a significare che almeno sul fronte della crescita economica, non dico del deficit, del rientro dal deficit, ma sul fronte della crescita economica l'America non solo ha superato tutta la frenata del 2008-2009, ma è andata oltre. È il maggior aumento del terzo trimestre dal 2003, più 5%, la precedente stima era più 3,5%, questo grazie ai consumi che sono saliti più delle attese, più 3,2% contro attese del 2,2%, a significare che l'America, a differenza di quello che capita all'Italia, non cresce grazie all'export, ma cresce in maniera, non che è importante crescere anche grazie all'export, ma non riuscirà mai a sopperire l'export quello che sono i consumi interni mancanti. Cresce grazie ai consumi degli americani, all'occupazione che è salita e alle spese degli americani, più 3,2%. Tra l'altro questo ha portato l'euro sotto quota 1,22, 1,21,76. Il ragionamento è molto semplice: se l'economia americana conferma la robustezza della sua crescita, la Banca Centrale Americana inizierà lentamente, per carità, a irrigidire, a stringere sul fronte tassi di interesse, e già la politica di stampaggio dei dollari è finita e quindi ci dovrebbe essere un rafforzamento del dollaro. Il mercato si muove in prospettiva, l'euro scende a 1,2174, che per noi è una buona notizia, tranne che per chi adesso in queste prossime settimane vuole andare a New York o negli Stati Uniti per motivi di turismo. Da questo punto di vista forse conveniva il dollaro 1,45, ma per il paese e non per i turisti in area dollaro molto meglio il dollaro o l'euro a 1,21 sul dollaro, perché voglio dire, siamo a 20 sostanzialmente punti in meno, valeva 1,42, 1,41 sei mesi fa. Di questo parleremo oggi, chiaramente parleremo anche del Consiglio dei Ministri, c'è domani un CDM in cui dovrebbero uscire due cose, soprattutto i decreti attuativi, parte dei decreti attuativi del Jobs Act, della riforma del mercato del lavoro e la vicenda Ilva di Taranto. Ci sono anche delle notizie interessanti sul fronte del risparmio degli italiani, perché come oggi riportava ampiamente il Sole 24 Ore, abbiamo da un lato un tasso dei BTP che scende a un nuovo minimo storico, oggi il BTP ha 10 anni, ha un minimo storico all'1,91%, anzi 1,911, e il Sole 24 Ore proprio oggi citava i bot a 3 mesi come rendimenti praticamente sotto zero. Il rendimento è sceso a meno 0,025, quindi sostanzialmente chi vuole prestare soldi allo Stato italiano, al debito, a tre mesi, quando li va a ritirare ne avrà un po' di meno, questo vuol dire rendimento negativo. Perché il rendimento è negativo? Perché si ritiene che rispetto a altri, perché c'è tanta domanda innanzitutto, e si ritiene che l'investimento sia sicuro. Questo però che cosa comporta? Per cui se tu presti 100 euro al tesoro, allo Stato italiano, fra tre mesi rinunci a 2,25 centesimi. Non è che uno può sostanzialmente dire va bene, meglio perché sono garantiti. Questo è il dato. I 26 miliardi, questo sta succedendo in molti casi, del maxi prestito che le banche italiane hanno avuto, hanno chiesto alla Banca Centrale Europea, vengono in buona parte parcheggiati in BOT, o comunque le banche italiane stanno parcheggiando buona parte della loro liquidità in BOT. Ancora, dicevo, questo ha una ricaduta nel comandamento medio anche sulla gestione del risparmio degli italiani. Perché? Perché sostanzialmente Assogestioni oggi ha fatto sapere che anche a novembre l'industria del risparmio gestito ha raccolto una cifra record, 9,2 miliardi, chiuderà il 2014 con flussi che sfiorano i 120 miliardi di euro. Praticamente il patrimonio gestito dall'industria del risparmio gestito è pari a 1.564 miliardi di euro, che praticamente supera per l'undicesima volta nell'anno il livello massimo mai raggiunto. Ora, non è che gli italiani improvvisamente siano diventati ricchi, certo che c'è il risparmio, restiamo il secondo paese per risparmio, e certo che non tutti per fortuna hanno avuto drammi economici come milioni di disoccupati o di imprenditori o di artigiani o di commercianti che vedono l'attività andare avanti a fatica. Il punto non è però che qualcuno si è arricchito all'improvviso, il problema è che quando tu hai dei rendimenti così bassi o inesistenti sul fronte dei titoli di Stato, che non ti proteggono o a scarsamente ti proteggono dall'inflazione, tendi a portare i tuoi soldi a questo punto sui fondi di investimento e a farli gestire. Per questo si arriva alla cifra che dà record storico di 1.564 miliardi di euro. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms. A chi me lo chiede, sì, parleremo anche del Consiglio dei Ministri domani, oggi illustrato dal Presidente Renzi al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ripeto, due temi. E Cassa Depositi e Prestiti da un lato, dentro la vicenda Ilva di Taranto, e Jobs Act. C'è qualcuno che mi suggerisce, invece che andare negli Stati Uniti, uno dovrebbe andare a San Pietroburgo o a Mosca, considerando il rublo. Ha ragione, il rublo è un 60% in meno rispetto a inizio anno, siamo ancora a 65-66 rubli per un euro. Se uno riesce a pagare l'albergo e eventualmente anche il viaggio in rubli, i ristoranti sicuramente, beh, il risparmio è del 60% rispetto ai prezzi di un anno fa. No, non posso parlare di una cosa che chiede un ascoltatore. 349, dicevo, 238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, mi chiedete perché i risparmiatori preferiscono mettere i soldi e perderci qualcosa e non tenere in liquidità. In effetti dubito che, per carità, tutto può essere che il BOT a tre mesi con rendimento negativo venga comprato dal risparmiatore classico, magari sui tre mesi. Sono spesso i grandi istituti finanziari, le banche in primo luogo, a mettere i soldi a tre mesi, dubito che il piccolo risparmiatore possa avere un interesse nel non sapere cosa succede ai suoi soldi per tre mesi. Detto questo, ne parleremo ampiamente, ma il motivo per cui cala lo spread e calano i rendimenti, si chiama anche Banca Centrale Europea. È inutile girarci attorno, ci sono crescenti aspettative che la BCE possa ricorre a interventi diretti sul mercato, cioè possa sparare l'ultima cartuccia grossa che le manca, comprare debito dei singoli paesi, il famoso quantitative easing, quindi la capacità poi di stampare moneta comprando debiti dei paesi, su cui la Germania è molto molto scettica. E poi gli operatori fanno notare che c'è un miglioramento della percezione del rischio di credito italiano. A mio avviso, Natale, questa è più una scusa, è il fatto che Draghi, che molti scommettono che Draghi prima o poi inizierà a comprare debito. Volete sapere qual è il primo paese al mondo per risparmio? È il Giappone, se non è cambiata la classifica. Il Giappone ha anche il vantaggio che buona parte, la stragrande maggioranza del suo debito è in mano ai giapponesi stessi. Altra notizia in breve, dicevamo dell'America, ma oggi sul fronte internazionale non c'è solo l'America, c'è anche la Grecia. Perché lo dico? Prima il petrolio. Il petrolio oggi è rimasto a $55 al barile, quindi stabile, però oggi il ministro del petrolio saudita, il potentissimo Ali Al-Naimi, ha detto non è interesse dell'OPEC, quindi dei paesi produttori, dei principali paesi produttori, tagliare la produzione di greggio indipendentemente dal livello dei prezzi, sia esso di 20, 40, 50, $60 il barile, del tutto irrilevante. E poi sempre Al-Naimi ha detto il mondo non rivedrà mai più il petrolio a $100 al barile, anche se i prezzi resteranno molto volatili negli anni a venire. Dicevo, oggi sul fronte internazionale non c'è solo e non c'è tanto solo l'America, ma c'è anche la Grecia. Allora, bisognerà attendere il 29 di dicembre, quando la maggioranza richiesta per eleggere il presidente della Repubblica greco scenderà dai 2/3 ai 3/5. Però, come ampiamente atteso, ahimè, si è concluso con un nulla di fatto anche la seconda tornata per eleggere il nuovo presidente. Il candidato governativo, che è Stavros Dimas, membro di Nea Dimokratia del premier Antonin Samaras ed ex commissario europeo, ha ottenuto solo 168 sì sui 200 che erano necessari. I no sono stati 131, uno l'assente. E nel frattempo il nuovo sondaggio in Grecia sulle percentuali di voto per i vari partiti vede ancora Syriza, quindi il partito di sinistra guidato da Alexis Tsipras, come in testa a tutti i sondaggi. Syriza infatti ottiene il 28,5% delle preferenze contro il 25% di Nea Dimokratia. Al terzo è quello di Samaras, del governo in carica. Al terzo posto il PASOK, con il 6,5% è precipitato il PASOK, il partito socialista. Poi segue To Potami, sarebbe il fiume, una nuova formazione di centro-sinistra, con il 5,5%. E poi il partito filo-nazista Crisi Avgi, Alba Dorata, lo conosciamo sotto questo nome, con il 5,5%. E poi il partito comunista di Grecia, con il 5%. Però attenzione, perché alla domanda su chi sarebbe il miglior premier al momento, il 36% dei greci ha risposto Samaras, quindi l'attuale premier, e il 29% ha detto Tsipras. Sì, arriveremo. Molti mi chiedono dei bot. Abbiamo un approfondimento apposito. Il costo medio del debito, di quanto ci è costato in media indebitarci nel 2014 come paese Italia, è ai minimi storici. Quindi questo è un grosso vantaggio per il governo. Il governo in questo momento ha tre grossi vantaggi, che poi li voglia dire così. Il primo si chiama tassi ai minimi storici per indebitarsi. Noi paghiamo circa 75 miliardi, pagavamo, di interessi sul debito, pagheremo meno. Se non ricordo male, l'ultima stima oscillava tra i 3 e i 5 miliardi in meno. Poi euro a quota 1,21, che dovrebbe avvantaggiare un po' il nostro export ulteriormente. Certo che c'è la zavorra della Russia, il meno 23% registrato nell'export a novembre verso la Russia, che è pesante, pesantissimo. Però l'euro una mano la dà, e il petrolio in concomitanza, che è a $55 al barile, quindi annulla tutto l'effetto dell'euro basso, del dollaro forte, il calo del prezzo del petrolio, perché altrimenti avremmo un vantaggio sull'export, ma pagheremmo di più il petrolio. Ma nel frattempo, appunto, il petrolio è calato così tanto che resta a vantaggio nostro il prezzo del petrolio, nonostante l'indebolimento dell'euro. Allora, due notizie in breve, poi arriviamo anche a una correzione, perché quando con la nostra rubrica sugli sprechi della pubblica amministrazione, la notizia che fa sorridere, oddio, fa piangere più che sorridere, ci sono voluti 13 anni all'Esselunga per aprire la sua negozio, no, il suo supermercato, il suo punto vendita a Livorno. 13 anni, è riuscito grazie alla giunta dei 5 Stelle. Il supermercato occupa 4.000 metri quadri nell'area ex Fiat di Viale Nievo, che tra l'altro riqualificherà tutta l'area. Ad anticipare l'accordo è stato lo stesso sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. 200 nuovi posti di lavoro. C'erano le preoccupazioni dei commercianti del quartiere in cui veniva realizzato il supermercato, e tra l'altro eliminando le fidelity card e battendo una moneta alternativa che potrà essere spesa soltanto nei negozi di quartiere. Quindi, dice il sindaco, il polo di attrazione di Esselunga sarà anche un attrattivo per gli stessi commercianti. C'erano poi l'Esselunga si è impegnata a utilizzare il polo ortofrutticolo livornese e il mercato ittico livornese. Però queste sono cose importanti, è giusto chiedere a chi vuole fare un investimento di utilizzare le risorse del territorio, il mercato ortofrutticolo, il mercato ittico, tutto quello che volete, ma perché 13 anni per le autorizzazioni mancanti, per l'esistenza? Non si può, per aprire un supermercato, metterci 13 anni in questo paese. Va bene, 349-238-6666 per i vostri sms. Qualche notizia su spese, non dico pazze, ma non corrette. Poi, volentieri, se è il caso, rettifichiamo, correggiamo la notizia che avevamo preso, come spesso facciamo, dai giornali, e che riguardava la terra dei fuochi. Ricorderete la regione Campania e quanto destinava la regione Campania per risollevare l'immagine delle province avvelenate. Campagne di sostanzialmente pubblicità e video e prodotti editoriali. Allora, intanto partiamo da Brindisi oggi. Dunque, c'erano i consiglieri comunali, gli assessori della maggioranza e dell'opposizione, ma anche i dirigenti comunali, i parenti degli amministratori, di aziende private, aziende di viaggio di Brindisi e persino anche giornalisti e TV locali. Per tutti loro la multiservizi di Brindisi pagava le multe automobilistiche. Oh, dice, beh, è un nuovo servizio, tu paghi la multa per me, io poi do i soldi a te. No, non si capisce perché. Ci sono 226 verbali, importi non enormi, vanno dai 20 agli 80 euro, ma sono costati alla società in house del comune di Brindisi 6.200 euro. Il comandante della Polizia Municipale di Brindisi è stato lui a scoprire la prassi, si chiama Teodoro Nigro, gli va il nostro applauso, e ha chiesto alla multiservizi una verifica. Attendiamo notizie dal comune di Brindisi. Nel frattempo, da Brindisi a Bologna, dove la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Corte regionale della Corte dei Conti, sta sequestrando in via conservativa beni immobili, retribuzioni e pensioni nei confronti di 8 capigruppo dell'Assemblea della Regione Emilia-Romagna. Questo per l'inchiesta sulle spese sostenute nel 2012, dove si ipotizza un danno erariale nei confronti dello Stato. È un filone dell'alveo complessivo delle spese pazze nella regione e della parte di cui si occupa la Corte dei Conti. La Procura di Nari infatti è già arrivata agli avvisi di fine indagine per peculato, con decine di indagati. Questo per quello che riguarda le uscite dei gruppi regionali nel periodo 2010-2011. Sono contestate dalla Procura Contabile spese ritenute non congrue per taxi, autostrade, treni, pasti, alberghi, giornali e consulenze. Oh, andiamo in Campania, però prima di arrivare alla regione Campania andiamo a Salerno, perché le spese del comune di Salerno sono approdate sul sito del governo, uno dei più cliccati, se ho ben visto ieri, forse il più cliccato nella giornata di ieri. Allora, tra i dati, non è che ci siano solo quelli del comune di Salerno, tutti hanno messo online, però tra i dati sorprende quello per l'energia elettrica, quasi 10 milioni di euro. Ora, il comune di Salerno pagava 3 milioni di euro nel 2013. Non so dirvi se sia tanto o poco, non sono un tecnico, diciamo, contabile che sa dire quanto deve spendere un comune come quello di Salerno per l'elettricità, però spendeva 3 milioni di euro nel 2013. Come fa a spendere 9 milioni e 900 mila euro, anzi per la precisione 9 milioni 866 mila euro nel 2014? Mistero. Ah, ragazzi, sono 6 milioni in più di elettricità, cioè tre, ma insomma è come se tua moglie ti portasse la bolletta, o tuo marito, che rispetto all'anno prima è tre volte superiore. Ma ti chiedi che cosa hai fatto con l'elettricità? Non penso che abbiano lavorato solo di notte nel comune di Salerno. 6 milioni è un peccato, perché tra l'altro il comune di Salerno è riuscito quest'anno a spendere solo 600 mila euro di incarichi esterni, l'anno scorso aveva speso 4 milioni e 7, no? No, non immagino nemmeno una compensazione tra 4 di incarichi e 6. No, non può funzionare così. Però, dico, hai risparmiato 4 milioni, che evidentemente tutti questi incarichi esterni tanto fondamentali non erano, ma bene, hai risparmiato 4 milioni di incarichi esterni e ne spendi 6 in più di elettricità. Poi bisogna capire un po' di voci. Perché, per esempio, il salario accessorio dei dipendenti quest'anno è sceso a 9 milioni, nel 2013 era 12 milioni, però sono esplosi gli straordinari, da 3.000 euro a 94.000 euro. Però c'è un nuovo record, è tutto online, è consultabile, nel comune di Salerno, è quello della carta igienica. Hanno speso al comune di Salerno, vi prego di evitare qualunque tipo di battuta prenatalizia, diciamo, hanno speso 74.385 euro di carta igienica. E nel 2013 avevano speso 18.000 euro. Allora, qua il raffronto si fa difficile, abbiate pazienza, però esistono influenze gastrointestinali, ci mancherebbe, però insomma, non posso entrare in un programma che già abbiamo che si occupa di salute. Dico semplicemente, come fai a spendere tre volte tanto? Cioè da 18.000 euro di carta igienica ne spendi 74.000. E poi, domanda che giro agli ascoltatori, magari qualcuno risponde, riuscirà a rispondere, che nesso ci potrebbe essere tra una bolletta elettrica del comune di Salerno che è triplicata da 3 milioni a 9 milioni 860 mila e un consumo di carta igienica che è triplicato? Qui si aprono ipotesi ancora forse sconosciute a noi mortali o alla scienza intera. Vabbè, una buona notizia, almeno spero, ce l'abbiamo subito, perché ricorderete che lo scorso 19 dicembre ci siamo occupati della regione Campania, che stando a quanto riportavano i quotidiani locali, per la Terra dei Fuochi spendeva più in spot pubblicitari, video e prodotti editoriali di quanto non spendesse per riqualificare il territorio. Quasi, eravamo lì. Sostanzialmente a noi risultava, appunto, tramite la stampa locale, 23 milioni per realizzare video e prodotti editoriali a mezzo della partecipata Sviluppo Campania, 33 milioni di aiuti alle aziende agricole, per un totale di 56 milioni contro soli 42 milioni per le bonifiche delle discariche da Giugliano in poi. Tra l'altro, nel pacchetto di restauro immagine ci sono anche 5 milioni per le società sportive, ben 3 milioni e mezzo per il Calcio Napoli. Allora, siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Sviluppo Campania, tra Catania e Campania qua. Di Sviluppo Campania, che è la finanziaria della regione Campania, a cui venivano attribuiti questi soldi per pubblicità tramite video e inserzioni sui giornali. Alessandro Gargani, buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora, mi dica tutto, perché noi le correzioni, quando, a maggior ragione quando sono virtuose, le diamo ancor più volentieri. Li spendete questi 23 milioni? Guardi, se li spendiamo lo vedremo. Io credo che la rettifica che era importante fare è intanto sui numeri, che sono importanti. Sì. L'iniziativa complessiva della Regione Campania su questi temi è di circa 300 milioni di euro. Di questi fondi una parte, anche per destinazione, può essere fisicamente destinata alle bonifiche, parliamo di circa metà di quella, cioè 150. Circa 150, che ovviamente non sono gestiti dalla finanziaria regionale, che si occupa invece di imprese e sviluppo di impresa. In realtà la componente che gestiamo noi vale 150 milioni, è una delibera complessiva che dà soldi alle imprese della Regione Campania con misure anticicliche, si chiamano, e in questo ambito 55 milioni dei 150 sono specificamente destinati per vincolo originario a beneficiare le imprese agricole della trasformazione agroalimentare. Per cui la prima componente di rettifica, che stiamo parlando di una quota teorica di 23 milioni su un totale di circa 300, e tenga conto che di solito la regola comunitaria è che il 5% debba essere destinato alla comunicazione, e non è questo il caso. Nello specifico, quello che è stato oggetto, devo dire, anche di corretta attenzione, ma di impropria comunicazione, è che tra queste misure di comunicazione avevamo e abbiamo 5 milioni ipoteticamente destinati a veicolare un'immagine della Campania sana attraverso lo sport. Il marchio registrato è Campania Sicura, per dare l'idea di una Campania che è sia sicura che sicura, nel senso che intende che curare i propri mali, esatto. E avevamo questo problema, cioè trovare il modo migliore e più corretto per ipotizzare come spendere 5 milioni di euro veicolando questa immagine attraverso lo sport. Abbiamo commissionato uno studio che ci ha dato, su parametri oggettivi, quelli che si usano per capirci per i diritti televisivi degli sport presso le leghe, e abbiamo costruito un indice che ha ripartito nemmeno il 100% dell'importo, ma il 90%, perché abbiamo fatto un'ipotesi di partenza. Ma mi faccia, scusi Gargani, mi faccia capire, allora, ripercorrendo, sono 300 milioni di euro che voi destinate per la riqualifica... Sì. Che la regione, chiaramente, non voi come Sviluppo Campania, ha messo a disposizione per riqualificare la terra dei fuochi. Okay? Sì. Di questi, 150 vanno per la bonifica, ho capito bene? Sì. Ok, circa. Ecco, quanti va? Lei però non sta negando che una ventina potrebbero andare per motivi pubblicitari, se ho capito bene? Io sto dicendo che la misura di cui lei parla, di 23 milioni, in realtà per motivi pubblicitari la voce sarebbe 12 milioni, perché il resto è per la produzione di contenuti sempre a beneficio delle imprese, documentari e spot. 4 milioni sono destinati per aiutare questi imprenditori a partecipare all'Expo, 2 milioni sono dedicati alle filiere più diciamo danneggiate, quella del grano per la pasta, quella dell'allevamento per i caseifici. Quindi diciamo le misure tra virgolette più orientate alla comunicazione sono 12 milioni di euro per campagne di comunicazione e questi 5 che utilizzavano lo sport come veicolo, perché il resto è produzione di contenuti, quindi ha come beneficiari indiretti gli imprenditori, ma non è acquisto di pubblicità, per capirci. Ok, E la parte sulle società sportive, mi scusi, ho capito poco, sì. Cioè voi dite, avete fatto uno studio, avete verificato che veicolare messaggi positivi sulla terra dei fuochi attraverso, cioè i 3 milioni e mezzo per il calcio Napoli servono a questo scopo? Allora, i 3 milioni, aspetti scusi che mi sente? Sì, la sento bene. Allora dicevo, i 3 milioni e mezzo per il calcio Napoli sono un'allocazione ipotetica basata su dati di seguito di pubblico oggettivi e riscontrabili con le leghe sportive, nel senso che siccome noi non stiamo dando contributi alle società sportive, ma stiamo ipotizzando di acquistare servizi, abbiamo utilizzato un indicatore che ci desse una misura del seguito. Ma li avete già spesi questi soldi oppure no? No. Nemmeno impegnati, in effetti la componente importante della rettifica è che diciamo questa attenzione è l'attenzione che è stata dedicata semplicemente a un budget. Sì, la precisazione, perché rettifica se proprio non ci fossero stati questi soldi, però va bene, tutto bene, noi siamo contenti che intanto che la cifra più, per bonificare il territorio sia più ingente di quella che risultava ai quotidiani locali. In secondo luogo che la parte, 23 milioni, in realtà 12 poi li girate un po' per l'Expo e quant'altro, e va bene. Magari sarebbe importante fare anche campagne di promozione all'estero e nelle regioni italiane, perché lo dico a chi scrive, lì ci sono produzioni casearie importantissime che hanno avuto un danno enorme dalla gestione diciamo, degli stessi campani in molti casi della terra dei fuochi, perché sappiamo benissimo che sono crollate anche in alcuni casi le vendite di mozzarella, cioè, sembra una battuta ma non è così. E vediamo poi, volete utilizzare le società sportive per veicolare questo messaggio, magari appunto non solo nel territorio campano, no? Ma... Assolutamente no, assolutamente no, l'idea è di veicolare questo messaggio anche fuori, con due specificazioni. In realtà gli studi che abbiamo fatto e che saranno anche poi disponibili dicono che in realtà il grosso del danno fatto alle produzioni campane in realtà è più vicino di dove si pensa, perché più ci si allontana dall'Italia, mentre in Italia il problema c'è, meno si percepisce la diversità di provenienza tra regioni. E poi invece il danno è sulla grande distribuzione, cioè chi compra grossi quantitativi per la distribuzione nei supermercati, per esempio in Europa, lì si è assicurato. Sì, dopodiché glielo dico da chi si occupa di comunicazione, è importante che il messaggio venga diffuso, la cosa più importante però è bonificare, perché non è che la comunicazione arrivi, cioè prima fate le bonifiche e poi comunicate che le bonifiche sono state fatte, perché poi non basta la comunicazione, nel senso che lì il danno sul territorio degli versamenti è stato veramente devastante. Comunque, bene, meglio mi sento in parte, perché è importante anche chiarire e noi ci teniamo molto. Grazie, amministratore delegato di Sviluppo Campania, Alessandro Gargani. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. No, no, non sono d'accordo con chi scrive. Attenzione, è giusto, se c'è una cosa da chiarire, se i 23 milioni, se anche la stampa locale riporta male le notizie, noi siamo qui e siamo sempre aperti. Scusa, alcuni che abbiamo citato in questi anni ci hanno querelato direttamente. Li abbiamo citati perché accusati di malversazione, di furto, di varie cose, vanno direttamente alla querela, ci mancherebbe, per diffamazione. Altri chiamano e dicono: no, guarda che in realtà i 23 milioni non erano, in questo caso non erano tutti per la pubblicità, in parte vanno anche per le aziende. Va bene, il resto dell'idea che prima si debba bonificare l'area e poi iniziare a comunicare la bonifica e non le due cose in parallelo. Vedo che molti sulla COP che ci ha messo, sulla S lunga che ci ha messo 13 anni ad aprire a Livorno, danno la colpa alle COP. Beh, la pensa così anche Caprotti, che ha scritto interi libri su questo, non lo so. Io so solo che finalmente dopo 13 anni apre la COP a Livorno grazie a un sindaco 5 Stelle. Sarà un caso. E mi sembra che l'accordo sia apre S lunga, dagliela questa COP, apre S lunga a Livorno con un sindaco 5 Stelle, non lo so, non conosco l'attività del sindaco precedente. Ritengo che sia comunque scandaloso metterci 13 anni, o dici di no o le fai aprire subito, e poi sulle responsabilità accettiamo consigli. Intanto però meteo, pubblicità e poi parliamo dell'industria alimentare, ma soprattutto anche di come la reverse charge annunciata dall'ultima legge, ne abbiamo parlato ieri, dall'ultima legge di stabilità, sta allarmando soprattutto il mondo della grande distribuzione. Allora, molti messaggi sul fatto che al comune di Salerno siano riusciti a triplicare le spese per l'elettricità da 3 milioni a 9 milioni 800 mila euro e triplicare in contemporanea le spese per carta igienica, anche in questo caso sono passate a 18 mila, da 18 mila euro a 74 mila euro. Vedo varie proposte sulle connessioni tra il triplicarsi delle spese di elettricità e quelle di carta igienica. No, una cosa la devo dire però, un'ascoltatrice che mi scrive, lei è veramente antimeridionale, antimeridionalista. No, guardi, infatti citiamo il sud come Bologna, come Val d'Aosta, la Lombardia, il Veneto, il Friuli, abbiamo fatto Piemonte, abbiamo fatto di tutto. No, casomai sono per un diverso meridione, se proprio vogliamo andare nella retorica, e per una diversa Italia, questo sì. Cioè non mi piacciono molte delle cose che raccontiamo del nostro sud, il modo in cui viene gestito dagli amministratori locali, non tutto, ci mancherebbe, l'assenza di spirito civico, ma questo vale anche per il resto del paese. Cioè non voglio citare Sasha e la linea della Palma, però insomma va bene così. Io vorrei, sono anti certi comportamenti di questa Italia, compresi i comportamenti dell'Italia del sud, certo. ma non amare questo tipo di comportamenti non vuol dire avercela con chi abita al sud o con chi abita in Italia, ma ci mancherebbe. Allora, presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, intanto mi dia un dato sull'anno che si sta per chiudere, perché ho visto oggi le vendite dell'Istat, vendite al dettaglio, meno 0,8% sull'anno, il commercio, nei primi 10 mesi meno 1,3%, non c'è settore che si salvi dal cibo ai farmaci, gli alimentari hanno fatto meno 1,1%, e poi vorrei capire perché siete così preoccupati sulla reverse charge, ossia l'inversione contabile dell'IVA a fini anti-evasione. In pratica la tassa viene versata direttamente allo Stato e non al fornitore della merce o del servizio, che viene estesa appunto anche alla grande distribuzione, oltre al settore dell'edilizia, a quello energetico e delle imprese di pulizia. Prima un bilancio sull'anno, Russia inclusa. Certo, allora consumi in termini calma piatta dopo ormai 10 anni di crollo, di perdita di oltre 14 punti di consumo alimentare. L'alimentare è un settore i cui consumi calano più lentamente all'inizio della crisi, ma una volta che sono calati faticano a riprendere. Quindi dopo un crollo anche nel 2013 di oltre il meno 3%, il 2014 rischia di essere il primo anno un pochino in pari, e con qualche piccolissimo decimale si cominciava a vedere una piccola ripresa nel 2015. Dico si cominciava a vedere perché se poi ci si fa del male da soli e da un lato si ipotizza come clausola di salvaguardia l'aumento dell'IVA sui generi alimentari e dall'altro poi si drenano 8 miliardi di liquidità facendo fallire le aziende che vanno a credito d'IVA con questa trovata geniale del reverse charge, allora vuol dire che il bambino va ammazzato in culla e che appena la ripresa comincia qualcuno sì. Pensa bene di venire a raschiare il barile. Beh, adesso arriviamo anche a questo, al traffico, però insomma consumi piatti, e quanto pesa la Russia nell'export? Ma in termini assoluti non pesa enormemente, perché sono 562 milioni di esportazioni di agroalimentare su un totale di solo alimentare di 26 miliardi, per cui pesa poco. Pesa molto perché era il paese in prospettiva che cresceva di più 26% contro un più 5% medio, quindi in pochi anni sarebbe diventato il nostro mercato di elezione se qualcuno non avesse pensato che le sanzioni risolvessero qualcosa. Questo andiamo sulla politica estera. No, adesso al traffico, poi vorrei capire della reverse charge. Vedo molte proposte di spiegazione su come fa il comune di Salerno a triplicare i costi di carta igienica e bolletta elettrica. Alcune non posso leggerle, siamo in fascia protetta. Però mi scrivono alcuni cittadini, immagino di Salerno, visto che oggi mi interessa questo tema, invito tutti a scrivere. A Salerno da qualche tempo c'è Luci di Natale, che oltre a far aumentare la spesa per la bolletta elettrica ha fatto crescere il PIL della cittadina. Sì, ho capito, ma questi dati sono, cioè, da 3 milioni di euro a 9 milioni e 800 mila di bolletta elettrica non li fai solo con le luci di Natale, abbiate pazienza, ma che è Manhattan Salerno. L'altra invece dice che è stata appaltata l'approvvigionamento di energia elettrica a una società sempre in perdita. Sì, ho capito, ma cosa c'entra? Se è in perdita non è che gli dai soldi in più. Aspetto ancora suggerimenti validi e seri sulla se c'è una correlazione tra utilizzo di carta igienica e consumo di energia elettrica, e se qualcuno ha altre informazioni. Allora, vorrei chiudere con l'industria alimentare. Il peso delle esportazioni sul fatturato in 10 anni l'avete quasi raddoppiato, Scordamaglia, lei che rappresenta appunto, che presiede Federalimentare, passando dal 13% del 2003 al 20% del 2013, 30 miliardi in tutto. Siamo ancora lontani da competitori come Spagna, che fa il 22% del totale, Francia il 28%, e la Germania esporta più alimentare alla Germania rispetto a noi. Ci mancano un po' i grandi gruppi, Scordamaglia, su questo. Un miliardo... Prego. Sì, sicuramente sì, è incomprensibile perché noi esportiamo a maggior valore aggiunto, a parità di categorie di prodotto i prodotti, non so, dai formaggi ai salumi che esportiamo noi valgono sui mercati internazionali il doppio di quello che vale quello tedesco, quindi cosa manca? Sicuramente le dimensioni, siamo troppo polverizzati, sicuramente un sistema complessivo che è in grado di aprire i mercati, tutti i mercati vogliono il food and beverage italiano, ma per mille motivi non riusciamo ad arrivarci in maniera organizzata e con capacità distributiva. Allora, sì, tra l'altro su questo sì, le sanzioni sulla Russia pesano. Vuoi darmi anche un commento sull'Esselunga a Livorno? No, è troppo. Insomma, dopo 13 anni Caprotti, ho visto adesso un'agenzia, il patron, il fondatore di Esselunga, dice era un no politico. E in effetti l'ha aperto il sindaco 5 Stelle di Livorno, che notoriamente non è una città, cioè così, in mano a CL o alla destra. Secondo lei esistono resistenze di carattere politico all'apertura della grande distribuzione? Secondo me esistono innanzitutto resistenze burocratiche ancora prima di politiche, che anche senza alcun orientamento politico rallentano tutti i processi autorizzativi e fanno scappare le aziende e le imprese di distribuzione da questo paese. Probabilmente 13 anni sono troppi anche per un paese che ha delle lunghe liste d'attesa, per cui forse il fatto politico va tenuto in considerazione. No, anche perché ricordo a chi ci sta scrivendo che l'intesa è interessante, perché il supermercato occuperà 200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Io non ho nessun rapporto con l'Esselunga, se non che ogni tanto, come vado all'Ipercoop, come vado nei negozi sotto casa, vado anche all'Esselunga, per cui chiarisco subito il tema. Però sono 200 posti nuovi posti di lavoro, 4.000 metri quadri, e poi l'Esselunga si è impegnata nell'accordo a utilizzare il polo ortofrutticolo livornese e il mercato ittico livornese per l'approvvigionamento dei supermercati toscani, non solo quello di Livorno. E poi addirittura sta cosa per cui verranno eliminate le fidelity card, perché c'erano i commercianti del quartiere preoccupati, e verrà battuta una moneta alternativa che potrà essere spesa soltanto nei negozi del quartiere, come diciamo, al posto della fidelity avrai dei buoni da spendere, se ho ben capito, nei negozi del quartiere. Allora, prego. È un paese che muore di burocrazia. Lei prima parlava di Russia, non solo la distribuzione ma anche la produzione. Sì, ma parlava, questo è un paese in cui il punto più veloce la linea più veloce per congiungere due punti è una curva, perché voglio dire qua. Ha parlato di Russia, le dico che noi per aprire un grandissimo impianto in centro a Mosca ci abbiamo messo 2 anni, un impianto più piccolo a Orenburg 18 mesi, per avere l'autorizzazione ad un allargamento di pochissimi metri quadri a Modena è 4 anni che siamo ancora fermi, quindi dov'è la burocrazia? Poi non so perché mi scrivono da Genova tantissimi, tanto stia tranquillo che a Genova l'Esselunga non riuscirà mai ad aprire perché le Coop non vogliono, non lo so questo adesso obiettivamente. C'è anche Burlando, parlategli. No, noto proprio dal punto di vista statistico che mi stanno arrivando decine di messaggi da Genova sul tema dell'Esselunga. Evidentemente manca questo lo capisco anch'io, manca l'Esselunga a Genova. Mi dica della reverse charge, cos'è che non va bene? Il governo lo fa per combattere l'evasione fiscale, cioè chi intasca l'IVA e poi non la versa. E dice che in questo modo vale anche per la grande distribuzione, la verserete direttamente allo Stato e non al fornitore della merce o del servizio. Questa è una colossale bufala, e cercheremo di dimostrare a Bruxelles quanto sia una bufala, perché se c'è un settore che non evade l'IVA è la grande distribuzione. Se si voleva combattere l'IVA lo si faceva da altri settori come il normal trade. Qui la verità è che c'è una situazione di estrema disagio in cui lo Stato ha bisogno di raschiare il barile e di prendere oltre 8 miliardi di liquidità, perché questo è quello che viene sottratto alle casse dei fornitori alimentari della grande distribuzione, per cui da un lato si dice di voler favorire la circolazione di liquidità nelle piccole e medie aziende, da un altro, provocando dei crediti d'IVA che vanno oltre l'anno, in realtà si accelererà il fallimento delle aziende. Ma noi siamo convinti che queste ragioni varranno a Bruxelles e Bruxelles non ha. Ah, voi farete ricorso, perché su questo, come spiegava ieri Gianni Trovati, c'è il parere di Bruxelles che è vincolante, no? Quando si tratta di IVA. Assolutamente vincolante, sono misure che si possono adottare solo se viene dimostrata l'effettiva efficacia della lotta all'evasione. E ripeto, sfido chiunque a dire che la sacca di evasione stia nella grande distribuzione, lo dice la stessa Ragioneria Generale dello Stato, che nella lista degli evasori, delle tipologie di evasione, mette il dettaglio, soprattutto la GDO, all'ultimo posto. Va bene, grazie anche al presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia. C'è il GR24, poi la borsa, i rendimenti dei bot ai minimi storici sotto zero e anche dei BTP, e il PIL americano che cresce oltre ogni attesa, americano e non italiano. 17:07 minuti, riprende Focus Economia. Abbiamo anche fatto contento un ascoltatore che voleva questa base, Rise Your Weapon. Adesso, visto che è Natale, siamo tutti più buoni. C'è chi continua a scrivere, ma ha scritto anche un'ascoltatrice dicendo che a Genova, ma io prendo per così col beneficio del dubbio, a Genova l'Esselunga in realtà ha investito e gestisce delle aiuole, ma non riesce a aprire il supermercato. Oh, adesso. Poi c'è chi mi scrive sono anch'io pregno dei soliti luoghi comuni antimeridionali. Noi, oltre a citare le notizie, altri commenti non diamo, ma confermo che vale per l'Italia quello che vale per il sud dell'Italia, e cioè che noi auspichiamo, vorremmo un'altra Italia per alcune cose e un altro anche mezzogiorno. Allora, però adesso c'è la borsa e poi andiamo con i rendimenti dei bot BTP, i bot a tre mesi scesi a rendimenti negativi. E l'America, la borsa chiude l'ultima seduta prima di Natale con un rialzo dell'1,46%, Parigi più 1,42%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,33%, euro a quota 1,21,79. Nel giorno in cui, ma ne parleremo più avanti, il Dow Jones ha toccato il nuovo record storico a 18.000 punti. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, volumi bassi oggi, immagino, no? Perché c'è già. Però World Duty Free più 4,35%, e poi c'è il caso di Seat che oggi ha fatto. Cavolo, aveva ragione l'ascoltatore che ieri ha detto conviene comprare Seat oggi. Sì, se ti piace il rischio, abbiamo detto a 0,0027, però oggi Seat ha fatto più 22%. La Popolare Etruria più 10%, e vorrei partire proprio dai titoli più sottili, Popolare Etruria e Seat. Sì, allora, per quello che riguarda la Popolare dell'Etruria, oggi ha guadagnato il 10,6%, c'è una ristrutturazione in corsa da parte dell'Istituto dell'Italia Centrale. Ieri il CDA ha varato un nuovo modello organizzativo, ha annunciato 410 esuberi. Si tratta tutta di una serie di mosse che puntano ad agevolare per la banca il, come dire, la ricerca di un partner. È un'operazione che va avanti da tempo, ma per il momento nessuno si è ancora detto interessato alla banca. Adesso ha varato tutte queste novità, anche questi tagli dolorosi, per cercare di prepararsi al meglio per la ricerca di un partner. Il mercato sembra scommettere che questa possa essere la volta buona e ha premiato il titolo. Allora, per quello che riguarda invece gli altri titoli, citavamo in apertura World Duty Free, che comunque è il migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione, più 4,30%. Sì, World Duty Free ha ritrovato quota 8 euro per azione, è un valore che non vedeva da ottobre. A ottobre il titolo aveva avuto un movimento negativo molto pesante dopo che erano emersi delle clausole in alcuni contratti relativi agli aeroporti spagnoli che mettevano a rischio i margini del gruppo. Da allora era iniziato un lungo movimento ribassista che nell'ultima settimana si è fermato, il titolo ha ripreso e oggi anche il superamento di quota 8 euro anche come soglia tecnica ha agevolato gli acquisti, ed è andata bene anche Autogrill, che comunque ha fatto più 3,75% e anche essa ai massimi da fine settembre. Sì, poi bene anche Fiat Chrysler più 2,90, Buzzi Unicem più 2,90, Pop Emilia Romagna più 2,80, Ferragamo più 2,70, Banco Popolare più 2,30, Enel più 2,20, Unicredit più 2,1%. Allora, Intesa San Paolo invece oggi non ha presentato l'offerta per rilevare CATS da Royal Bank of Scotland. Sta sfumando l'operazione? Sì, almeno per quello che riguarda Intesa sta sfumando. Diciamo che anche negli ultimi giorni quello che aveva detto il management era stato molto cauto, perché Intesa interessava poter acquistare questa banca se questo avesse voluto dire avere una presenza nel Regno Unito, avere un marchio, mentre Royal Bank of Scotland sta cercando di vendere solo le attività estere e non vuole, come dire, cedere anche il marchio, per cui per Intesa San Paolo, che è alla ricerca magari di un'acquisizione che gli consenta di andare in Europa, visto che è un istituto soprattutto italiano, non diventa meno significativo. Mentre ha comprato il 20% che gli mancava della banca Monte di Parma. Sì, ha comprato. Ecco, non confondiamo i termini, il Monte di Parma. A proposito del Monte, ma dei Paschi, oggi un po' in recupero. Sì, però, oggi insomma, un recupero molto parziale, visto che l'1,31% dopo aver ceduto il 6,8%. E sostanzialmente un piccolo rimbalzo, perché poi le preoccupazioni fra gli operatori... Ma continua a capitalizzare meno dell'aumento di capitale? Sì, è attorno ai 2,4. L'aumento da 2 miliardi e mezzo, quindi leggermente sotto. Ancora i titoli che oggi sono mossi: negativa Hux meno 0,87%, Steam Microelectronics meno 0,48%. Dico a tutti gli ascoltatori, domani avremo la puntata con l'astrologa e con Tamburi sulla previsione di borsa, per cui continuate a chiedermi dell'astrologa. Ho capito che butta così male che uno s'appella anche alle stelle, però insomma, domani puntata speciale a borsa chiusa di bilancio dell'anno, prospettive per il 2015. Ammesso che si possono imbroccare le prospettive sul 2015 e l'astrologia e l'aiuto anche delle stelle. Vedo molti che scrivono invece sul tema del reverse charge nella grande distribuzione toccato dal presidente di Federalimentare prima. Allora, mi scrivono alcuni ascoltatori, l'evasione non è nella grande distribuzione ma nei fornitori della GDO, soprattutto carne e pesce, incassano l'IVA sulla fattura emessa dalla GDO e poi non la versano all'erario. E poi dice un altro ascoltatore che, specialmente in una nazione dove le aziende anticipano 120 o 150 giorni l'IVA, la reverse charge è un vantaggio per il 100% delle aziende sane italiane, che almeno possono vantare crediti di cassa senza gravame dell'IVA. Per gli esportatori si faccia un'esenzione, come già accade, le aziende che non pagano se la vedono con lo Stato. Quindi alcuni invece sono d'accordo. Altri fanno notare che la reverse charge, comunque, più che gravare sui fornitori, si tratta di IVA a debito. Il tema lì mi sembrava la liquidità a breve, però ripeto, non accolgo le critiche e da ogni parte arrivino. Allora altri no, Daft Punk non lo metto e non passiamo adesso alla playlist di Focus Economia. Do i migliori e i peggiori invece della seduta, oltre a Seat Pagine Gialle e Popolare Trulli Lazio, bene anche Leone Film Group più 9%, Tribù Media più 6,16%, Credito Valtellinese più 5,25%, tra i peggiori invece Soft Strategy meno 8%, BB Biotech meno 5,80%, Primi sui motori meno 5,45%. Buon Natale e buon anno a questo punto ai colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore, a partire da Guido Maurino. Grazie anche a voi. Allora, domanda semplice. Perché dovremmo comprare un bot del tesoro a 3 mesi che rende in negativo, rende il meno 0,025%? Vuol dire che se dai 100 euro al tesoro adesso, fra 3 mesi ti prendi 2 centesimi e mezzo in meno, che non è un dramma, però è sempre un rendimento negativo. È avvenuto ieri e oggi era l'apertura, una delle aperture del Sole 24 Ore. Nel giorno in cui oggi invece il BTP a 10 anni ha toccato un nuovo minimo storico, l'1,911% lordo, tra l'altro anche lo spread è a 132 punti base su valori appunto minimi. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Prima la prima domanda e poi la seconda. Perché dovremmo comprarli e non li compriamo, tant'è vero che il risparmiatore li comprano le banche. Il motivo per cui le comprano le banche è che le banche italiane, ma non solo italiane, in tutta Europa, hanno ricevuto dalla Banca Centrale Europea a settembre e a dicembre oltre 50 miliardi di euro, sto parlando di quelle italiane, con questi finanziamenti a tasse agevolatissimi che si chiamano TLTRO in gergo, comunque sono finanziamenti che la Banca Centrale ha dato alle banche affinché le banche eroghino più credito alle imprese. Mm-hmm. Ebbene, questi soldi almeno in un primo momento, cioè adesso, vengono parcheggiati dalle banche in bot, cioè le banche prendono i soldi della BCE, li comprano bot. Anche se i tassi vanno in negativo, il motivo è che se depositassero i soldi, gli stessi soldi nel deposito, nel conto corrente della banca centrale, avrebbero un tasso ancora più negativo, meno 0,2%. Quindi preferiscono il meno 0,01% dei bot piuttosto che perdere soldi nella banca centrale europea. Quindi abbiamo chiarito il mistero, non siamo noi, a meno che può essere anche qualcuno che li compra, sono le banche che invece che depositarli alla BCE col tasso overnight negativo, invece che prestarli non solo per colpa delle banche, spesso le richieste di credito che vengono fatte, se le imprese non vedono fatturati in crescita, non hanno bisogno di fare investimenti, di comprare macchinari, aprire impianti nuovi, è chiaro che non vanno a chiedere i soldi così per nulla. E allo stesso modo le banche hanno anche il dovere, a mio avviso, di rifiutare richieste di prestito che sono fatte solo per pagare i fornitori o perché manca il contante. Per sì, cui poi c'è da dire che hanno ricevuto 50 miliardi, non possono erogare 50 miliardi in due giorni. Il piano della BCE è di più anni. Sì, però le banche lamentano appunto che arrivano richieste di poche e non di grandissima qualità. Ma questo è comprensibile nel momento in cui l'economia è ferma, probabilmente, tranne che alcuni casi di chi è molto legato all'export, gli stessi imprenditori non hanno tutto questo, diciamo, piani industriali di sviluppo e di crescita. Adesso andiamo sul traffico e poi invece cerchiamo di capire cosa sta capitando complessivamente al nostro debito, perché insomma mai abbiamo visto tanta fiducia sul rischio credito in Italia. Un ascoltatore mi fa notare che ho detto le 17 e 7 minuti, sì, sono le 18 e 18 minuti, se ho sbagliato orario non mi sono trasferito a Greenwich. Traffico. minuti ancora, scrivono alcuni ascoltatori, guardate che mi riferisco all'antimeridionalismo, guardate che sul Mose, sull'Expo, sul Comune di Torino, sulla Regione Piemonte, sull'Emilia Romagna, abbiamo fatto intere puntate, per cui io questa critica di avercela genericamente con il nostro Mezzogiorno non l'accetto, anzi spero che con quello che raccontiamo qualche coscienza in più pulita si svegli, no? Tutto qua, e magari qualcuno si vergogni, se ancora questa parola si può usare in questo paese. Allora, Moria Longo, come mai la fiducia sul rischio credito in Italia è così alta, che lo spread è ai minimi, il BTP va a un nuovo minimo storico, cioè non è mai costato così poco allo Stato italiano trovare investitori per il nostro debito? Sì, il paradosso è che è proprio il momento in cui il debito pubblico è ai massimi storici, oltre sì, ma è anche miliardi. Le prospettive di crescita non è sono che sono anche quella abbastanza. No, il motivo non è per un merito ovviamente dell'Italia, il motivo per cui ci sono questi forti acquisti sui titoli di Stato italiani e non solo, e quindi i rendimenti scendono moltissimo, è perché da un lato l'economia è in stagnazione in tutta Europa, l'inflazione è molto bassa, anzi si teme la deflazione, e quindi in termini reali anche rendimenti molto bassi diventano in termini reali più appetibili, o relativamente più appetibili, quindi c'è un discorso anche di deflazione, ma soprattutto il mercato scommette che proprio siccome l'economia europea e italiana in primo luogo è stagnante e non dà segnali di ripresa, scommette che l'anno prossimo la Banca Centrale Europea inizierà a comprare titoli di Stato iniettando liquidità, stampando moneta. Quindi se uno scommette, pensa, a torto ragione, perché non è detto che questo accada, ci sono molti punti di domanda, ma se il mercato ritiene che il prossimo anno la Banca Centrale Europea diventerà il grande acquirente di titoli di Stato, ovviamente gli investitori comprano titoli di Stato prima che lo faccia la BCE, ovviamente sapendo che arriverà un grande acquirente, quindi anticipano acquisti futuri di un grande. Per guadagnare nei mercati sia obbligazionari che azionari occorre sempre anticipare gli acquisti futuri. Esattamente, in questo caso sono abbastanza tra virgolette, chiamati. E non acquistare quando vi saranno vendite future, per essere questo, proprio alla catalano. Allora, questo per quello che riguarda il debito italiano. Sì, faccio notare che il Centro Studi Confindustria ci ha spiegato che l'anno prossimo sostanzialmente lo 0,5% che faremo di crescita è dovuto non a noi, a fenomeni esterni, cioè petrolio basso e euro basso. Adesso tu ci spieghi che l'andamento dello spread e la buona percezione del rischio credito italiano non è dovuto a noi, ma è dovuto alla Banca Centrale Europea, quello che si immagina farà Mario Draghi, insomma. Non è merito nostro, ma ce lo pigliamo comunque. Di questi tempi c'è poco da fare gli schizzinosi, e invece è tutto merito americano, o meglio delle politiche messe in piedi dalla Federal Reserve in questi anni. Il dato che oggi leggiamo, anche perché è un dato che è dovuto soprattutto a una crescita dei consumi superiore alle attese. Il PIL americano nel terzo trimestre dell'anno ha segnato un rialzo superiore a ogni attesa, si aspettavano il 3,9 e è cresciuto del 5%. E infatti Dow Jones tocca per la prima volta nella sua storia 18.000 punti, sta già ballando Mario Platero sulla base di questi dati. Beato te che balli, qua c'è poco da ballare, o meglio balliamo in altri modi. Mario Platero, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, purtroppo ballo molto poco anch'io, perché poi insomma lavoriamo tutti per l'Italia, non lavoriamo per l'America. E anche nello stesso gruppo, aggiungiamo. Per e anche nello stesso gruppo, no, un gruppo solido e fantastico. Mamma mia, l'Europa, diciamo che l'Europa è ferma, e questa è la cosa che mi colpisce di più, quando c'è una revisione al rialzo dal 3,9%, che era il primo dato ed era già un dato straordinario in partenza, al 5% di crescita. E allora qui consentimi Sebastiano, di ricordare ai nostri ascoltatori che purtroppo ci sono state delle persone che nel corso degli ultimi 2 anni, commentatori, economisti, hanno attaccato l'America per quello che ha fatto, hanno attaccato l'America per la sua politica monetaria, hanno attaccato l'America per la politica fiscale. Quando l'America era con un disavanzo pubblico del 10% sul PIL, rapporto disavanzo-PIL, ecco che tutti dicevano: guarda questi pazzi di americani, si torna di nuovo davanti al precipizio. E cose di questo genere sono state scritte e hanno rafforzato la posizione straordinariamente conservatrice della Germania. E di quello che è il contesto BCE, che purtroppo dipende molto dal pensiero conservatore tedesco. Ecco, nel giro di pochi anni questi dati sono cambiati. Oggi il rapporto deficit-PIL è al 4%, al 3,5% in proiezione, e soprattutto sono stati creati 10 milioni di posti di lavoro. Tu hai citato finalmente, dico finalmente perché c'è stato un flirt per molto tempo con quota 18.000 dell'indice Dow Jones. Finalmente è stato superato di slancio. E perché è stato superato? Perché c'è questo, non solo per il 5%, ma perché c'è un gioco di coordinamento molto buono con la Federal Reserve, con Janet Yellen, la quale ha fatto capire che come minimo fino a giugno i tassi di interesse non si toccano, e chissà, forse anche settembre. Insomma, c'è un atteggiamento completamente diverso. Io mi auguro che coloro che hanno criticato l'America dicendo che avrebbe prodotto inflazione, avrebbe prodotto recessione, avrebbe prodotto dei disastri, e che il tutto era, come dire, un fuoco di carta, beh, magari che si ricredano e che cominciano a dire che le cose devono cambiare urgentemente anche in Europa. A me lo dici, questo ci va da nozze, però insomma, se lo dico io sembra che ce l'abbia con la Germania e con le politiche, diciamo, filo tedesche, che hanno garantito all'Europa, all'area euro, l'unica seconda recessione di tutte le aree economiche mondiali, perché scusatemi, tutti gli altri paesi, America inclusa, sono già oltre i dati del 2009. Grazie anche a Mario Platero, buon Natale anche a te. Grazie e buon Natale, caro Sebastiano. Happy New Year. Eppure buon anno, e va bene, mettiamoci anche il buon anno. Oh, siete mai contenti? Adesso c'è qualcuno che dice che ma perché questa musica da discoteca in un programma di approfondimento di argomenti economici? Perché se dobbiamo mettere una musica coerente con l'anno che si sta per chiudere, ci restava qualcosa di Beethoven, qualche Chopin e poco altro, per non andare, diciamo, sul De Profundis o solo sui Carmina Burana, e quindi ogni tanto ci tiriamo su, poi altri l'apprezzano, cambieremo anche la playlist l'anno prossimo, figuratevi, fosse questo il problema del paese e del programma. Il CDM domani sul caso Ilva e sul Jobs Act, ne parleremo anche domani. Intanto un ringraziamento, come sempre, poi lo faremo a tutti gli ascoltatori, un auguro di buona serata. Comunque la pensiate, comunque la passiate. Focus Economia torna domani, puntata fondamentale, così faccio contenti quelli che dicono: ma come, musica alla discoteca? Eppure l'astrologa, sì, pure l'astrologa, assieme anche a Giovanni Tamburi e alle frasi più importanti di Mario Draghi e di Janet Yellen nel corso del 2014. Parleremo chiaramente di prospettive sui mercati azionari. Radio 24, la passione si sente.